Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, noi siamo pronti, possiamo partire con i titoli del nostro sommario, ma prima un saluto a Peter Bescapè in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e mi sono dimenticata, buongiorno a voi e grazie per essere in nostra compagnia. Sommario. Chirurgia refrattiva, pro e contro. Gambe, lascia che la natura si prenda cura di loro. Sorte antenna addio, impariamo insieme a prendere una decisione. Tema di oggi, luci e ombre della chirurgia refrattiva. Sono ormai milioni nel mondo, decine di migliaia ogni anno in Italia, le persone che si sottopongono ad interventi di chirurgia laser per correggere difetti visivi e buttare, come si dice, gli occhiali alle ortiche, o quasi. Allora, se l'idea vi alluzza, restate, perché oggi vogliamo proprio darvi tutte le informazioni possibili per scegliere bene, capire se l'intervento fa il caso vostro oppure se, come si dice, è meglio passare la mano. Saremo molto molto precisi, quindi chirurgia refrattiva, se, come, quando, per evitare ogni rischio. Dimenticavo, se però vi siete già operati e non siete soddisfatti, chiamateci, perché la vostra esperienza ci interessa molto. 800 24 00 24, questo è il numero verde per intervenire in diretta. Se invece preferite mandarci un messaggio, 349 238 6666. In studio con me il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. Dottor Scialdone, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro qua con un bel paio di occhiali. Io sono uno di quelli scartati. Sono scartato. Un rifiuto della chirurgia refrattiva. E perché ci sono persone, infatti, esatto, che come il dottor Scialdone non possono proprio sottoporsi, esatto, alla... Esatto, a cui è sconsigliato. Ci è rimasto male, dottor Scialdone? Un po' sì, perché una volta facevo tanta piscina e surf, e quindi togliere gli occhiali poteva essere anche abbastanza comodo. Fra l'altro sono anche un po' intollerante agli occhiali, per motivi caratteriali soprattutto, sì. E quindi è andata così, sarà per la prossima vita. Allora, però, nella scelta dovete considerare tanti aspetti. Uno di questi è che gli occhiali a volte non servono solo a vedere, ma anche a farsi vedere, e l'immagine ci guadagna. Così direi, dottor Scialdone, accanto alla categoria dei quattro occhi per necessità, in cui, certo, mettiamo anche quelli che non vogliono farlo oppure che sono stati scartati come lei, si è aggiunta quella dei quattro occhi per scelta. In linea con noi abbiamo un famoso giornalista sportivo che forse tiene il piede in due scarpe, appartiene un po' a questi due mondi. Saluto Marco Marzocchi. Ciao Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senti Marco, mi piace questa cosa, mi piace questa definizione che c'ho i piedi in due scarpe, mi piace. Mi senti, piace. Perché verrebbe da dire, ma tu lo sei o lo fai, il mio inteso? Ma io, dunque, inizialmente ero più lo facevo, adesso purtroppo lo sono anche un po', insomma, per cui... Una cosa che è nata, non dico per gioco ovviamente, perché nasce comunque da un inizio di necessità, anche se non così impellente, è diventata col passare del tempo, come il dottore ovviamente sa, una necessità. Diciamo che io potrei ancora vivere senza, però soprattutto per il lavoro che faccio, per il fatto di stare davanti al computer molto a lungo, per il fatto magari nel momento in cui sono durante una diretta di dover leggere un'agenzia, di dover leggere un sommario, ed è lì che io ho soprattutto problemi nella lettura, nel mettere a fuoco e via dicendo, avere degli occhiali che mi correggano e mi sostengono è un aiuto. Detto questo, appena il mio miglior amico che è oculista ha capito che avrei avuto un problema, mi ha detto: vuoi metterti gli occhiali, vuoi provare a vedere come ti stanno? E io qualche anno fa provai, mi stavano bene, ho detto vabbè, come ho anticipato la caduta dei capelli tagliandomi i capelli a zero, ho anticipato miopia o presbiopia cominciando a mettere gli occhiali un po' prima del necessario. Tra l'altro, Marco, il look ci guadagna, perché io sto notando, anch'io adesso metto gli occhiali per leggere, perché dopo gli anta capita un po' a tutti, non è non è patologico, è fisiologico questo, sì. Dottor Scialdone, sicuramente, giusto, sì, ma infatti è un regalino degli anni, ma ben venga, perché vuol dire che ci sono. Io noto che le montature scelte ad arte stanno meglio e poi nascondono un po' le zampette di gallina, nascondono le occhiaie. Marco, sì o no? Che tolgono un po' di anni gli occhiali, se scelti bene. Dire, sulle zampe di gallina sono d'accordo, anche sull'occhiaia e la borsa sotto l'occhio ci guadagna, sono d'accordo, ma io devo dire a me divertono, nel senso che io da giovane, quando avevo anche i capelli, mi divertivo a cambiare look molto spesso, con barba, pizzi, capelli lunghi, capelli corti, codini, gel ai capelli, capelli tagliati un po' da una parte e meno dall'altra. Non potendo più giocare molto, diciamo così, con i miei capelli e divertirmi con il mio aspetto, l'unica maniera per divertirmi è magari la barba o il pizzo, piuttosto che appunto degli occhiali un po' strani. E in effetti fai la tua figura, Marco. Sì, no, ma poi vedi, poi la gente si ricorda di me. Tu non mi avresti chiamato se non avessi notato che spesso ho degli occhiali un po' strani. Senti, Marco, ma io ho preso questo pretesto. In realtà ho fatto tutta la puntata per chiamare te, per rompere il ghiaccio e chiamarti. Dottor Cialdone. Sì, signor Giochi, faccio una domanda. Come fa con lo sport? No, ma io faccio abbastanza bene, nel senso che io non ho delle quantità, cioè dei numeri. C'ho un po' di problema all'occhio sinistro, ma l'occhio destro fa fatica per andare appresso all'osso sinistro. All'occhio sinistro, ovviamente, non devo dirlo a lei, nel senso, per sopperire a quel piccolo problema che ho a sinistra, ma stiamo parlando di cose nemmeno di uno, non stiamo parlando nemmeno di un grado, insomma, di problema, ecco. Quindi ce la posso fare. Benissimo. Diciamo che se una partita mi dura un'ora è meglio che se mi dura quattro ore, per ovvi motivi, ma sotto vari aspetti, direi, anche sotto l'aspetto delle gambe, voglio dire. Senti, Marco, di che colore è la tua montatura oggi? Ma oggi ce l'ho celeste e nera. Celeste e nera, bene. Sì. Invece qualcosa il dottor... di non. Forse era meglio se era un po' più rossa e nera, però pazienza. Ma adesso viene fuori il tifo, va bene. Celeste e nera, nessuno mi può dire niente, perché non esistono in Italia squadre di colore celeste e nero. Quindi insomma. Infatti, tu devi rimanere super partes. Insomma, più o meno. Con gli occhiali almeno no. Marco, ti ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata, un abbraccio. Buon lavoro a tutti. Dottor Cialdone, invece, torniamo a noi. Il suo compito oggi è proprio quello di aiutare chi sta accarezzando l'idea di farsi operare, ad avere tutte le informazioni necessarie per scegliere bene. Ogni caso, lei l'ha ripetuto tante volte, è unico. Quindi, dottor Cialdone, dica esattamente che cosa ha bisogno per aiutare i nostri ascoltatori. Che cosa ci devono dire? Il loro disturbo, l'età? Allora, diciamo un'auto verifica già comincia a tagliare un po' la testa al toro. Sopra i 18 anni e con dei dubbi al di sopra dei 55. Dopodiché nessuna malattia generale, quindi niente, per ipotesi, diabete, collagenopatie, cose varie, nessuna malattia oculare, non so, supponiamo un quarantenne col glaucoma, faccio per dire, quindi essere sani da un punto di vista generale. Nessuna tendenza a fare grosse cicatrici. Chi si è già operato, mai avuto qualcosa nella vita per cui gli è rimasta una grossa cicatrice sproporzionata al trauma o all'intervento che ha fatto, sa che è un candidato un po' povero, diciamo, da un punto di vista qualitativo, perché potrebbe fare più cicatrici anche sull'occhio. Detto questo, le altre caratteristiche poi vanno ritrovate dall'oculista. In generale, per il laser in senso puro, per la correzione della miopia, è meglio non eccedere intorno alle 8-9 diottrie, a seconda del tipo di laser che si ha. Per la ipermetropia, da un punto di vista dell'efficacia reale, è meglio non eccedere le 3 diottrie di ipermetropia, perché i laser con difficoltà ce la fanno. Ma di questo ci occuperemo proprio nel dettaglio, stimolati, come si dice, dalle vostre chiamate. 800 24 00 24, scatenatevi e scriveteci anche al 349 238 6666. Una mela al giorno. Adesso che si scoprono, i problemi vengono a galla. Parlo di gambe, in particolare di quelle di noi donne. Sono un po', diciamocelo, il nostro punto debole. In questa stagione ci danno qualche grattacapo in più. Al gonfiore, alla pesantezza, tipici sintomi che compaiono a fine giornata, si aggiungono i capillari, si notano di più in questa stagione, non sono certo belli a vedersi, la cellulite e la pelle a buccia d'arancia. Di tutto questo lo sappiamo, i medici dicono dovevate occuparvene prima, ma io credo che non sia mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura di sé, e quindi ho invitato il dottor Marco Temporin e gli ho chiesto di venire a darci una mano. Dottor Temporin, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Il dottor Temporini è medico nutrizionista specialista in igiene e medicina preventiva. Dottore, io direi con lei di aprire l'armadietto dei rimedi naturali e cerchiamo un po' di vedere insieme che cosa ci mette a disposizione la natura per far star meglio le nostre gambe. Certamente Nicoletta. Inizierei a parlare con il problema della stanchezza e l'affaticamento delle gambe. Visto che, come dice, non è mai troppo tardi per prendersi cura di sé, consiglierei dei suggerimenti pratici alla portata di tutti. Una cosa molto molto efficace e estremamente pratica è l'idroterapia, ossia la terapia con l'acqua. Quindi getti freddi ascendenti sulle gambe più volte al giorno, quando c'è la possibilità dei pediluvi alterni d'acqua calda e acqua fredda, magari mettendo nell'acqua calda qualche estratto fitoterapico come di rosmarino per stimolare la microcircolazione, ma anche molto bello al mattino la passeggiata a piedi scalzi sulla rugiada è un ottimo tonificante per la nostra circolazione e anche per la nostra mente. Quindi chi ha il giardino o un prato a disposizione faccia una corsetta appena sveglio. Sì, a piedi scalzi nella rugiada è eccezionale. Magnifico. Mi sembra anche poi un'immagine bucolica. Senta, dottor Temporin, questi semplici esercizi sono sufficienti a togliere o attenuare la stanchezza, ma guardi un po' bene se tra i rimedi naturali c'è anche qualcosa di interessante per le gambe pesanti, ma con edemi e cellulite. Beh, diciamo che se vogliamo qualcosa di più interessante vi devo far mettere al lavoro. Allora, prima di tutto dovete procurarvi dell'argilla verde, così possiamo preparare un impacco da mettere nelle gambe e fare una buona terapia durante la giornata. Bene. Allora, dobbiamo procurarci dal nostro erborista di fiducia già una miscela di queste piante che adesso vi andrò a dire e poi facendo un decotto lo utilizziamo impastandolo con l'argilla. Allora, siamo pronti per segnarci le piante. Allora, le piante da miscelare sono la centella asiatica, la Mamelis virginiana, la Calendula officinalis, il Ruscus aculeatus e la menta piperita. Si possono utilizzare, miscelare in parti uguali, dopodiché una volta ottenuta questa miscela noi prepariamo il decotto di queste piante. Il decotto va preparato mettendo, facciamo conto per un litro d'acqua, 4 cucchiai di questa miscela, si porta ad ebollizione, dopodiché si lascia riposare per qualche minuto, si filtra e si utilizza come acqua per l'impasto dell'argilla. Magnifico! Poi una volta che abbiamo impastato l'argilla la mettiamo sulle gambe? Una volta impastata l'argilla, ovviamente dobbiamo aspettare che il decotto fosse raffreddato, impastando l'argilla la mettiamo sulle gambe e la lasciamo agire per 45 minuti, un'ora. Ovviamente a riposo e con le gambe un po' alte. Dobbiamo anche fasciarla l'argilla utilizzando una pellicola oppure basta l'impacco così? Beh, la pellicola sicuramente è meglio evitarla in quanto potrebbe aumentare il calore localmente. Può essere fasciata anche con delle semplici garze di cotone. Dottor Temporin, proveremo sia la corsetta a piedi nudi nella rugiada, questa mi piace molto, ma io purtroppo non ho un giardino a disposizione, ma lo farò quanto prima, e poi proveremo con l'argilla verde. Vogliamo ricordare le piante da farci preparare dall'erborista per il nostro decotto? Certamente. Allora, la centella asiatica, la Mamelis virginiana, la Calendula officinalis, il Ruscus aculeatus e la menta piperita. Dottor Temporin, ci sentiamo presto. Grazie. Buona giornata. Riprendiamo ad occuparci di chirurgia refrattiva insieme al dottor Scialdone. Abbiamo già Antonio da Lecce, Bruna della provincia di Alessandria, Marco da Milano in linea. Una domanda sola al dottor Scialdone, proprio dell'ABC. Il laser, eliminando questi strati microscopici della cornea, permette di correggere i disturbi visivi, sì, no? Ma tutti i difetti, indipendentemente dalla loro entità, sono correggibili? Così diamo un elemento in più ai nostri ascoltatori? No, appunto. Come ha fatto capire prima, siccome il laser soprattutto nella miopia pialla la cornea e quindi la cornea si assottiglia e l'assottigliamento è proporzionale alle diottrie, più diottrie più assottigliamento, ma non posso assottigliare quanto voglio, c'è un limite che di solito è intorno ai 400 micron e corrisponde più o meno tra le 8 e le 10 diottrie, oltre il quale la struttura della cornea si destabilizza, e vengono fuori complicanze a lungo termine. 824 0024, vogliamo a Lecce. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi, vi ringrazio per l'opportunità e saluto i vostri ospiti. Una domanda semplice al volo. Io ho un problema di miopia su un occhio, l'occhio destro, di 3,75 diottrie. Sul sinistro invece sono astigmatico. Oltre che c'è un principio anche di presbitia, per cui diciamo è un po' complicata. Però volevo chiedere al dottore se era consigliabile un intervento laser per ridurre diciamo il mio problema, ecco. Sì, certo. Grazie tutto. Antonio. Certo, diciamo la risposta sul 3,75 è che, salvo ovviamente verifica, però ha una ottima probabilità di essere ben corretto. L'astigmatismo dipende se è miopico, ipermetropico e di quant'è. Se è un astigmatismo al, diciamo, di 2-3 diottrie, anche lì ha una buona probabilità di avere una buona correzione, tenendo presente che, cominciando ad essere presbite, appena elimina la miopia comincerà a, diciamo, a giovarsi, a essere contento per lontano, e comincerà a lamentarci un po' più da vicino, perché l'effetto diventa immediatamente più evidente. Però diciamo scambia un vantaggio con un altro piccolo svantaggio. Quindi c'è un'età fino alla quale è conveniente fare una correzione, oppure inizia poi a diventare un po' una coperta un po' corta, come nel caso ma di Antonio? Ma io diciamo, no? Per l'età il problema non è tanto la presbiopia, quanto che dopo una certa età comincia a verificarsi un ingiallimento evidente del cristallino, e quindi si entra nell'età della cataratta. Quindi farsi due interventi eventualmente a 57-58, a 2-3 anni di distanza, comincia a diventare un po' troppo. È lì che bisogna, come dire, stare attenti, che se ho una cataratta iniziale forse mi conviene aspettare un attimo e operarmi di cataratta, perché la miopia con la cataratta me la tolgo. Magnifico, quindi, no? Due piccioni con una fava. Non mi veniva. Bruna, dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Ecco, le espongo il caso, riguarda mia nuora, una ragazza di 33 anni. Sì, appunto. Che brava suocerina, Bruna! Si è operata in una clinica a Milano 2 mesi fa. Allora, l'intervento l'ha fatto su tutti e due gli occhi. Uno è andato benissimo, il secondo, a distanza di 2 mesi, ancora non va bene. Tutto subito, appunto, dolore terribile. Il giorno dopo io spiego a grandi linee, ecco, è stato sì tolto. Ma il dottor Scialdone capisce, mi ma sembra dalla chiedo, faccia, scusi, che capisca. Quanti diottrie ha corretto, se lo ricorda? Questo non lo so. Vabbè, ma aveva gli occhiali molto spessi o poco? No. Poco spessi. Ecco, e appunto questo occhio il giorno dopo l'intervento è stato controllato, tolto sto vetrino, che meno da quel che mi dice così lente a contatto, perché dice che sotto c'era dello sporco. Ha sofferto tanto male, veramente, e poi piano piano, cambiando gocce cortisoniche e storie varie, adesso è al controllo proprio oggi. Comunque in quest'occhio lei vede ancora sfocato. Guardi, probabilmente sua nuora ha fatto una tecnica che si chiama LASIK. Dico giusto? No. Forse sì. Cioè la cornea è stata aperta da una lama in due porzioni e il laser è stato fatto all'interno. Con questa tecnica, che è molto bella soprattutto sulle miopie elevate, però c'è un piccolo rischio, che non è molto frequente, però ci può essere, soprattutto, ripeto, con questa tecnica qui, che qualche impurità o qualche spesso reazione anomala si infiltri al di sotto del lembetto fatto e lo renda opaco. In generale, riaprire e ripulirlo è la tecnica giusta ed è quella consigliata, ed è quindi giusto quello che hanno fatto. Questo ovviamente ritarda un po' la guarigione. Eccetera. Anche noi dobbiamo ritardare le telefonate di Marco da Milano, che è in linea con noi, però voglio salutarlo. Marco? Sì, buongiorno. Buongiorno Marco. Buongiorno. Chirurgia refrattiva è il tema di oggi, 824 0024. In linea con noi abbiamo Marco che ci chiama da Milano. Marco, ribenvenuto. Buongiorno Nicoletta. 49 anni, ho un problema di vista nella lettura, vedo molto bene da lontano, ho sempre visto molto bene sia da vicino che da lontano, ma dall'età di 45 anni più o meno uso gli occhiali progressivi in questo caso. Mi mancano 2 diottrie per occhio, Però continuo a togliere e mettere gli occhiali, perché comunque mi danno fastidio. E li perde anche, Marco? Li perdo, li rompo, di tutto e di più. Poi lenti che costano anche abbastanza. Marco, scusi, perché li mette, li togli? Che fastidio le danno? Perché essendo comunque una misura abbastanza piccola, diciamo 2,5 centimetri, quando devo vedere da lontano incrocio anche la stina, mi dà un po' fastidio. Poi comunque mi danno, io le uso molto leggeri apposta, però insomma non ci sono ancora abituato. Forse uno degli errori che magari non le ha suggerito l'ottico è che nei progressivi la distanza fisica tra il punto di fissazione per lontano e quello per vicino deve essere almeno di 2,5, altrimenti si fa fatica, il campo visivo diventa troppo, come dire, il cambio improvviso. Forse colpa dell'occhiale non ben fatto. Però dicevo, per quanto riguarda l'intervento, sì, è possibile farlo? È conveniente? Allora, ci sono interventi per la correzione della presbiopia fatti sulla cornea. Sono interventi in cui ancora non è stata raggiunta statisticamente nella massa delle persone una ripetibilità e una garanzia di risultato sufficientemente elevata da potersi, come dire, fra virgolette, fidare bene. Fra l'altro colgo l'occasione per dire che adesso fra un po' si comincerà a sperimentare negli Stati Uniti una nuova tecnologia, un nuovo laser che non userà più gli eccimeri come adesso, ma le radiofrequenze, quindi? E quindi modificherà la cornea senza assottigliarla. È una cosa ancora, ripeto, molto sperimentale. Se tutto va bene, suppongo che potrebbe arrivare sul mercato, diciamo, fra un 3 anni, 4. E quindi magari per la presbiopia potrebbe essere la cosa giusta. Nel frattempo Marco deve aspettare. Nel frattempo secondo me Marco dovrebbe ricontrollare meglio il progressivo, perché mi sembra che sia mentalmente favorevole ma operativamente in difficoltà. Dottor Cialdone, abbiamo visto che ci sono delle categorie di persone che non possono operarsi per problemi di salute anche generale o delle patologie oculari, però ci sono anche tipi di occhio che non possono essere operati, e lì si scoprono quando ci si sottopone alla visita oculistica. Sì. Vogliamo, senza essere troppo tecnici, ricordarli? Sì, certo. Ci sono cose che ovviamente la persona non può controllare da sola. E sono sostanzialmente, senza cavillare troppo, come si diceva in particolare, ci sono lo spessore della cornea. Se ho una cornea troppo sottile, le cornee possono essere più o meno spesse, esattamente come uno è alto o basso, insomma. Per cui l'oculista controlla lo spessore della cornea, e se ho una cornea troppo sottile e ho invece diottrie tante, 6, 7, 8, dovrò assottigliare troppo la cornea. Quindi diciamo che sulle 2-3 diottrie di miopia il problema praticamente non si pone, tranne rari casi, mentre sul, ripeto, dalle 5-6 in su si può porre il problema. E questa è una cosa. Secondo, il diametro pupillare quando c'è poca luce. Ci sono persone, soprattutto donne, con i pupilloni grandi che fanno tanto fascino, ma che possono creare, soprattutto sulle correzioni delle miopie medio-elevate, dei problemi di abbagliamento alla luce dopo operati. Quindi vengono fuori quelle situazioni per cui si ha molto fastidio alle luci artificiali, al guidare di notte, la sindrome dell'albero di Natale, per cui si vedono tante cose, e la vita può diventare molto difficile. In quei casi lo scarto del paziente è quasi obbligatorio. E sicuramente non rientrava in questi casi Fabrizio Frizzi, che è in linea con noi, che gli occhiali li ha levati. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno professore, buongiorno a tutti. Buongiorno. Fabrizio, tu quante diottrie avevi? Ma io non è che ne avessi tante, avevo 2,5 all'occhio sinistro, un paio al destro e un astigmatismo all'occhio sinistro. Quindi ma detestavo gli occhiali, nel senso che li ho sempre visti come una specie di filtro nei confronti del mondo esterno, e almeno in quel periodo, penso adesso ci ho fatto un po' pace, ma e allora quando ho trovato la maniera di avere fiducia nei confronti di un professore, perché comunque quell'operazione mi faceva molta paura prima di farla, mi sono buttato pensando che comunque per alcuni momenti della mia vita fosse meglio vederci bene da lontano. Senti Fabrizio, tu hai detto questo intervento mi faceva molto paura e quando ho trovato proprio un oculista che mi ha dato fiducia. Che cosa ti ha fatto scattare la fiducia nei confronti dell'oculista che poi ti ha operato? Sono i casi talvolta che spingono a fare, almeno nel mio caso, a fare delle scelte. Ho sentito parlare più volte di questo professore in pochi giorni da persone diverse. E a quel punto, per approfondire la conoscenza di questo tipo di operazione, parliamo del 2002, quindi ormai 7 anni fa, ho chiesto un appuntamento al professore, che è un professore che lavora a Roma. Sono andato a trovarlo e lui mi ha spiegato tutti i dettagli dell'operazione, mi ha spiegato tutti i rischi, anche insomma, quindi la delicatezza di quello che si doveva fare nel caso io avessi deciso di farlo. E, è stato così chiaro, così, come dire, così nitido nella spiegazione che trasparente. Mi ha convinto. L'oculista, il dottor Scialdone ti dice trasparente, tu hai detto nitido, lui ha aggiunto trasparente, in effetti l'oculista deve informarci proprio dei pro e anche dei ma contro. Ma io ho capito quello che vuol dire Frizzi, lui vuol dire non solo chiaro nell'esplicazione ma trasparente nelle intenzioni, cioè il professionista certo. Deve dare l'impressione di fare l'interesse del paziente. Ho usato l'aggettivo nitido perché era quasi una battuta, nel senso certo, un doppio senso. Si tende a riacquisire una vista, una nitidezza nella vista da lontano, ho usato quello perché poi il giorno dopo l'operazione magicamente ho rivisto l'ora della sveglia che sta a 4 metri, a 3 metri e mezzo dal letto. Cosa che ovviamente fino al giorno prima non riuscivo a fare assolutamente. E quelli sono grandi momenti. Fabrizio, quindi sei soddisfatto al punto da dire l'avessi fatto prima? Ma dunque sono soddisfatto perché quello che volevo l'ho ottenuto. Andare in vacanza e vedere bene i colori del mare, degli alberi, della natura da lontano è una gioia che da quel momento mi è stata restituita. Soprattutto quando uno appunto va in mare, quindi si deve togliere gli occhiali, si deve togliere le lenti, no? E nel mio lavoro per esempio vedere da lontano è fondamentale perché noi lavoriamo molto con scritture, gobbi e cose del genere, per cui insomma la nitidezza da lontano è fondamentale. Certamente si pagano dei piccoli prezzi che sapevo già che avrei pagato, nel senso che in maniera più forte quando si entra nella presbiopia, insomma lo scontro tra il vedere da lontano e non vedere un tubo da vicino è notevole, insomma. Beh, certo. Quando devo leggere qualcosa, se non mi metto gli occhiali non riesco quasi a vedere neanche quello che mangio nel piatto, insomma, però è una cosa assolutamente normale. Ero interessato a quello che diceva prima il professore sugli sviluppi delle operazioni in questa direzione, nella direzione di togliere la presbiopia, ma certamente non fare la cavia adesso. Allora mandiamo, come si dice, avanti gli altri, intanto aspettiamo buone nuove dall'America. Fabrizio, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Dottor Scialdone, sentendo quello che diceva Fabrizio Frizzi, miopia, presbiopia, ma allora, arrivato a una certa età in cui anche il miope poi si confronta, gioco forse, con la presbiopia, certo, conviene operarsi o aspettare o non ne vale la pena? Abbiamo detto per la cataratta, aspettiamo, no? Per la cataratta sicuramente, ma parliamo in generale di persone al di sopra dei 57-58 sì. Mentre anni. Quindi adesso siamo tra i 45 e i 55, sostanzialmente... bisogna riflettere che già il miope che lavora normalmente in ufficio, che ha esigenze diverse, lontano, vicino, computer, anche se non si opera, comunque deve mettere un occhiale da presbite piuttosto che un occhiale multifocale o progressivo, perché se toglie l'occhiale legge per vicino, però poi non può vedere per lontano, quindi quello che si chiama in termini computeristico multitasking, cioè sì, il fare varie cose più o meno contemporaneamente, non è risolvibile se non con un progressivo. Sì. Quindi anche chi non si opera ha un occhiale. Se però mi opero, almeno ho il vantaggio che quando faccio la mia attività preferita, che può essere il tennis, può essere lo sport, quel che sia, almeno non ho l'occhiale. poi me lo metterò nel resto delle situazioni esattamente come se non mi fossi operato. Chiaro. Rispondiamo a Federico. Mi chiamo Federico, va bene. Sono miope, leggermente astigmatico. Se non elimino tutto il problema con l'operazione dopo, posso comunque portare le lenti a contatto? Sì. Risposta. Esattamente, se le portavo prima le posso portare anche dopo. Linda invece ci chiama da Verona. Buongiorno Linda. Buongiorno, buongiorno a voi. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, una domanda per il professore. Volevo sapere se questo tipo di intervento ha delle controindicazioni per la gravidanza. In che senso? E volevo sapere se con un possibile travaglio, gli sforzi del parto, eccetera, si potrebbe danneggiare l'intervento. Ma no, la risposta è può tranquillamente fare l'intervento, da verificare, come lei sa, nelle persone miopi elevate, nelle donne scusi, miopi elevate, la retina, perché l'occhio viene trattato da un punto di vista refrattivo, cioè di occhiale, ma la retina del miope elevato, meno 6, meno 8, quello che sia, rimane sottile e potrebbe avere a causa dello sforzo qualche alterazione, quindi soprattutto quel versante lì, e soprattutto di non farsi l'intervento se prevede di essere incinta o già incinta. Non so com'è la situazione, perché dopo l'intervento deve mettere dei colliri che potrebbero danneggiare il feto per alcuni mesi. Figlia, 14 anni, laser, quando? E perché, aggiungo io? Io direi c'è un'età. Perché no? Nel senso che il laser, salvo casi particolari, è un'azione volontaria e quindi il figlio o la figlia non è in grado anche legalmente di decidere di eseguire un intervento se non prima dei 18 anni. Questo dal punto di vista formale e di rispetto della persona. Dal punto di vista dell'evoluzione della miopia, in generale i 18 anni servono ad assicurarsi almeno che la miopia sia un po' ferma e stabile, che è uno dei requisiti che dovremmo sempre ricordare. Miopia ferma per un anno almeno, altrimenti mi posso operare e poi ricomincio a essere miope da capo un'altra volta. Andiamo a Bergamo per Cinzia, ma anche noi vogliamo essere nitidi e trasparenti, vogliamo sottolineare tutti i rischi, perché Frizzi diceva giustamente, è stato nitido, trasparente, come, perché mi ha detto anche i pro e i contro. È importante che l'oculista lo dica, certo. È importante che noi lo chiediamo e se non capiamo bene lo richiediamo, siete lì apposta. Certo. Cinzia, allora da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io ho 31 anni, sono un'insegnante, quindi mi serve proprio vedere da lontano per evitare che mi copino negli ultimi banchi. Prima portavo gli occhiali, però per un fattore di civetteria cerco di evitarle con le lenti a contatto, però è una tragedia ogni volta mettersi queste lenti. Ho 2,50 di miopia in tutti i due occhi. E volevo sapere appunto se è un intervento, cioè, ormai di routine, consigliato, eccetera, perché mi avevano detto di aspettare i 28-30 anni, mi dicevano così, perché col lavoro che faccio sforzo continuamente la vista, ora non so se è vero o meno. Senta, correggere compiti. Cinzia, lei che cosa insegna? Lettere, allora, temi. Allora, dottor Cialdone. Allora, io direi che le due diottrie e mezzo fanno parte del gruppo di trattamenti laser che ottengono i risultati migliori, quindi sono i miopi ideali. Vengono fatti in Italia più o meno 80-100.000 interventi l'anno ormai da più o meno una decina di anni, quindi più testato di così direi che non si può. Quindi sicuramente l'intervento, la probabilità di avere un problema è con queste diottrie qui inferiore all'1%. Il rischio zero rimane neanche a casa seduti fermi, insomma. Però direi che sicuramente sì, può essere una cosa. Chiaramente la signora Cinzia saprà che tutto quello che guadagna ora, che le farà felicità, farà un pochino di, come dire, penalizzazione quando fra una decina di anni comincerà ad avere qualche problema per vicino, ma a quel punto intanto in questi 10 anni se l'è goduta in fondo, nei banchi in nessuno fondo, può nessuno copiare. Può copiare questo, ma chi ferma la fantasia dei ragazzi? Senta, dottor Cialdone, è dura per sempre? Sì, l'operazione dura per sempre, nel senso che se la miopia è ferma non c'è nessun motivo, le corne sono stabili. Rischi però, ne vogliamo parlare, delle controindicazioni, dei soggetti che non possono farsi operare, l'abbiamo detto. Però, dopo l'intervento, ogni intervento può comportare dei rischi, sì. Ma dopo l'intervento, che cosa devo aspettarmi? Dunque, allora, i risultati da un punto che sono risultati rifrattivi di occhiale, la precisione dei risultati è inversamente proporzionale alle diottrie che correggo. Cioè, se correggo meno 2, ho il 97-98% di probabilità di avere occhiale 0 dopo l'intervento. Sì. Se correggo meno 8, ho una probabilità del 90, dell'85-90. Sì. Quindi mi può rimanere un qualche cosa. È un po' come sparare con la pistola. Più lontano sparo, più il bersaglio potrebbe essere impreciso. Sì. È possibile essere ritrattati successivamente se rimane qualche piccola cosa. Ovviamente bisogna, ripeto, che il difetto sia fermo, perché ritrattare ad libitum non va bene. La cornea è un tessuto trasparente, stimolarlo troppo non va bene, non è bello. Ci possono essere anche, quando si fanno troppe diottrie di correzione, una guarigione non perfettamente limpida e trasparente, che si chiama haze con una parola inglese, e che è quella che, anche se le mie diottrie non ci sono più, mi dà una vista un po' meno limpida di come era prima. Ed è questo il rischio principale a cui bisogna fare attenzione. Non esagerare con le diottrie, perché la cornea reagisce e può non prenderla, diciamo così in termini molto da bar, potrebbe non prenderla bene. Altri le vengono altro in mente rischio, altri l'altra rischi. Cosa principale è, come dicevo prima, gli abbagliamenti alle luci, sì. E quindi chi ha pupille troppo larghe ad oggi viene considerato una persona a rischio, soprattutto su miopie elevate. Che altro dire? Sì, l'ultima cosa molto importante sono, sempre nelle miopie elevate, un assottigliamento eccessivo della cornea. Quindi se io tolgo più del 30-40% della cornea, mi può rimanere un assottigliamento che nel tempo mi dà una deformazione con una alterazione della vista non rimediabile. Questo è gravissimo. Questo è abbastanza grave. Ci sono casi? Casi soprattutto negli Stati Uniti negli anni passati hanno esagerato e hanno avuto un po' di problemi in questo senso, però ad oggi chi si va a fare laser oggi non dovrebbe più incontrare questo problema, perché abbiamo capito quali sono i limiti. Paolo da Treviso, io ho 20 secondi, se no qua mi sgridano, ce la fa? Buongiorno, saluto il professore. In sostanza io ho 37 anni, porto gli occhiali da sempre, da quando ero piccolissimo ho un po' di tutto, perché mi manca 6 diottrie sull'occhio destro e 4 sull'occhio sinistro. Sono presbite, miope, le ho tutte, però volevo avvicinarmi, come faccio l'autista comunque, volevo avvicinarmi al discorso dell'operazione per recuperare e sistemare la vista, se posso farla, se ci sono controindicazioni, se potrò buttare via gli occhiali, devo sempre utilizzarli, questo. Ecco, io le farei notare una cosa, giusto per darle uno stimolo, lei, supponiamo, toglie la miopia per lontano, fa il camionista, deve continuamente guardare poi il contachilometri piuttosto che tutte le sue varie regolazioni, si dovrà mettere un occhiale. Quindi di lì non si no, scappa. No, lo può fare per vedere meglio, ma poi un occhiale deve portare lo stesso. Allora Paolo, se ha bisogno di ulteriori informazioni ci scrive essere benessere@radio24.it. Grazie dottor Scialdone. Grazie a voi. A domani dopo il GR delle 11. Buona giornata e grazie.